La formazione naturalmente è quella dei Ramones. Complimenti a Pietro che si è aggiudicato per quest'oggi il penultimo, domani è l'ultimo, videogame Viking per Xbox 360. E poi posso svelarvi che il buon Fabio mi ha detto: guarda, visto che settimana prossima è l'ultima, ti preparo uno scatolone immenso con dentro di tutto e di più, e quindi settimana prossima di tutto e di più, non so cosa arriverà, lo sentiremo direttamente da lui quando ci collegheremo insieme a Fabio Halifax il prossimo lunedì. Siamo entrati negli ultimi 30 minuti in attesa dell'arrivo della nostra e vostra Claudia da mezzogiorno alle ore 14. Noi proseguiamo con la prossima canzone che ci porta ad ascoltare i Foo Fighters.

addirittura d'arrivo, 10 minuti, grazie a Giorgio Canali con le note di questo precipito. Abbiamo ancora un paio di pezzi e poi vi lascerò con Claudia, che a volte o arriva 18 ore prima o arriva 30 secondi dopo. Vediamo, oggi piove, però ieri ha lavorato, quindi ci sta tutto questo. Ultimi due brani, il primo è firmato Danko Jones. She gives me such a shock, baby, I am no exception. I always get too shy each time she gives me the eye. I got a bad, but it's getting worse, I can't deny. She makes me forget my name. She makes me forget my name. Little Miss Evil got away with people. She's got them under her thumb, wrapped around her finger. I get a shaky leg when she sees me staring at her. I don't know what to do, baby, I can only shiver. She makes me forget my name. Yes, it does. She makes me forget my name. Yes, I do. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Thames, it seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your whim. They eat without a sound. Digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Says you are what you wear, well, well. dare. Bursting your belt, that is your homing chef. The captain leaves. Saluti per questa nostra fase finale di questa giornata, di questo giovedì 22 di maggio. Grazie a Veronica, Drino, ancora al gruppo d'ascolto a sei zampe, Stefano e Benjo. Buona giornata anche a voi, siamo veramente arrivati all'ultimo brano, poi Claudia, si sono perse le tracce, non si sa se c'è o non c'è, comunque vedremo se arriverà. Io vi ringrazio, vi rimando a domattina, ultimo appuntamento della settimana a partire dalle ore 9 naturalmente sino alle ore 12. Ricordo questa sera l'ultimo appuntamento in replica di Hard and Heavy dalle 20 alle 21. Un bacione, un abbraccio a tutti e a domattina. Ciao ciao!